Famone. Vai, vai. Illu. Gatti. Lucrezia, tu sì. E beh, Gianni. Sì, io sto entrando in radio. Non l'ho capretto. Il garage si è aggiustato. A posto? Appa. Un transistor. Non è molto, non è la moto spesa, no? Sì, già ne parliamo per fissare. Qui domani ricorda, tenere. Sì, ah già. Siccome oggi ho avuto un mal di testa assurdo, capito, un bel forte, va. Ho preso un hook, stamattina non mi è passato, ma ho preso una bevinci a pranzo, ero qua, morendo, mal di testa. Siccome mia somaria mi stava dicendo che c'era la tumulazione della zia, vabbè, ho dato la parola a te, dai. Ascolta, il tempo come, cosa ha messo di tempo? Sole. Vabbè, dai, vabbè. Domani mattina verso le... ma lei dice che è troppo tardi, ce la facciamo a finirla per l'una? Mica dobbiamo togliere solo il pezzo di sopra e mettere l'altro, mi dice. C'è subito, sono 5 minuti a fare. 5 minuti, no, devo chiamare lunga, bu. Io non le vuole cambiare. Non sei Giamballu, non aggiungi Giamballu, devo cambiare l'antenna e basta, cosa si ritiene? Se ci sono un paio d'ore di lavoro è troppo. Ah, ciao, Cla. Vabbè, dai. C'avevo un mal di testa oggi, poi mi sono andato stamattina dal medico a portargli il coso di Urigo, che ho travisto la schiena, c'ho, come si chiama, delle ernie, così ha detto, e c'ho delle visite da fare, un bel po' di visite devo fare, cazzo, un bel. Sì, ho preso l'auli poco fa io, c'ho un mal di schiena allucinante. No, non fare niente, non... Abbiamo solo l'antenna, ce n'è problema, togliere il piantone vecchio, mettere il piantone nuovo, rimettere tutto com'era, no? Non si fa niente adesso, anche perché deve provare l'antenna, cosa mi pongo a fare, se travagli la buona antenna non andava bene, ne dubito perché l'ho rifatta tutta nuovo, quindi penso che vada bene, perciò un paio d'ore è tutto fatto, forse anche meno, non ce n'è problema, capito? Adesso la speranza qua sta più avvicinando, lì da voi non lo so, qua sta più avvicinando. Infatti ha messo... giovedì ha messo bello, giovedì sì. Qua no adesso, qua. Non sta più avvicinando. Giovedì il sole c'è. Però io giovedì devo aiutare... giovedì sono impegnato, devo andare a... vabbè, quello di pomeriggio tanto. Perciò non mi interessa, si può fare anche di macchina volendo. Però giovedì sono a piedi, non c'ho la macchina. No, se non piove la facciamo domani, Lu, così me la tolgo a mezzo dei piedi. Ce l'ho qua in stanza l'antenna, capito? Il mostro tutto qua, i radiali, tutto qua c'ho. E la voglio fare così. È fatto, capito? Ma l'antenna è nuova. Il resto può anche andare bene per il momento. Si farà in un secondo tempo quando decide. A tempo bello bello, perché c'è anche freddo, capito? Non è questa lampada di un'altra gabitudine. Però l'antenna si fa, penso un'ora e mezza è tutto fatto, non è un lavoro lungo, dai. Però ti ripeto, qua sta più avvicinando, domani ha dato nuvoloso, il resto non lo so, speriamo che non piova. Io alle 10 sono a casa di Gianni, porto il cane alle 9, 10 minuti, un quarto d'ora e poi scendo da Gianni, capito? E io in teoria sì, sempre se il tempo lo permette, se... anche domani ha messo pioggerellina, è un casino qua, non fa, capito, vabbè, andava, poi come hai detto tu, stare sui tetti con questo freddo seccante, che noi non siamo manco abituati. Gianni mi ha dato un messaggio, dice che c'è sole domani, io ho visto giovedì sole, domani parzialmente nuvoloso, anche oggi acqua non ne ha dato, uno che prendeva, bello buco, vabbè dai, non c'è problema, se non piove si fa, se piove si rimanda, pazienza. Infatti, se rimandassi. Gianni, ci sei? Gianni è sparito qua. Non lo so. Aspetta un attimo. Torno subito. Sto chiamando due ore. Pensavo che stavate alle 10, perché non è siamo qua già, siamo tra l'abiletto, andiamo al 10, ma siamo qua. Claudio si è assentato un attimo. La famiglia aumenta, così è. E adesso devono nascere altri, Allora, uno ne ha 4 e l'altro ne ha 3. Altri 7 che devono avere. Ma la passione, là. Ah, a me mi piace, dopo mi soddisfa. La passione, sto dicendo, sta detto da passare. Ehi, passione e guadagno. Quindi sto mangiando un pezzo di pandoro. Sì, diciamo che il tuo guadagno non è perché ti paghi quello che mi dai da mangiare, mi basta. Io mi faccio un pezzo di uova a fare, di cosa per il rosa. Ehi, vabbè, almeno qualcosina ce la guadagni, dai. A portarsi del zio. Guarda, io le ricette che ho pago un sacco di soldi, però qua non c'è la cosa, no? Non le apprezzano, capito? In confinetto se vai alle fiere, li vedi 130, 120 euro l'uno. Che magari lì poi li apprezzano di più. Ma c'è delle cose, siamo giusto io, uno di Ottava, con una San Giovanni, c'è una sottostore, se ce l'abbiamo. Ho capito, fate la stessa cosa. Allora, quello di mi avvicino un po' più che sono una carta pregiata per fare gare pure. E da lì adesso quei lì hanno fatto le uova, hanno fatto 4 uova. Poi a Portotone ho comprato i Timbrados che sono usciti da campo spagnoli. E poi ho preso anche il fattore rosso, quelli che sono russi, cioè si chiamano fattore rosso. Quelli li ho presi a Sassari, un allevatore quello di Ottieri. Un giro grandetto, là. Cavolo. Vabbè, dalla serie quanto ne hai adesso in... cioè, quanto ne sono usciti? Già 3, così 4. Cavolo. E a mangiare glielo dalla mamma o tu? Su 5 uova ne sono nati 5. E poi c'è l'altra che ce ne ha 3 e l'altra che ne ha 4. Se nascono tutti... va bene, là. Sì, ma da mangiare glielo dai tu e glielo dalla mamma. Mamma, la mamma fa il nido e la madre fa il nido per mangiare il pane. No, ehi, ehi, belli, belli, già, a me già piace. Io mi ricordo tanti anni fa avevamo una cardellina bella già, ma bella, tu non va, era uno spettacolo. Cioè, aveva la testa arancione, perché era vecchia, ma già che tu cantava. Non lo dico a me mi chiamavano più così, da ragazzino, andavo a mischiare, prendevo i canalini selvatici, verdoni, facevo l'incrocio, no, il canalino col cardellino, il verdone col canalino, facevo l'incrocio, prendevo le uova, tutte le due uova da un nido di verdone e le facevo compare al mio che stava compando le uova, il canalino. Facevano i verdoni che le compare e poi si accoppiavano. Hai visto, eh? Bisogna saperle fare anche queste cose. Sì, bisogna informarsi un po'. Per dire, adesso non è stagione, loro dovrebbero farli a primavera i figli. Però io faccio una cosa, sino alle 5 li lascio la luce del giorno. Dopo le 5 li attacco la luce di casa, li metto dentro casa e li faccio, c'ho la luce a LED e di quelle fredde, di quelle che fanno un bel di luce, e li lascio la luce sopra e loro continuano, perché se no come smette la luce smettono di darli da mangiare ai piccoli. Invece se tu gli dai la luce sino alle 10 loro li danno sempre da mangiare, li fanno diventare grandi, se no muoiono, se non li dà ogni due ore da mangiare muoiono. Eh beh, devono mangiare già, non è che è normale. Loro vanno tutto in base alla luce, capito? Sia l'estro che il fatto di dare da mangiare ai piccoli si regolano tutto sulla luce. Devono avere 13 ore di luce al giorno, come d'estate, capito? Sì, beh, certo. Beh, fa buio alle 4 e mezza se ti fidi, alle 5, là. Dai, già adesso già cambia l'orario, là, un paio di mesi ancora. E gli altri lasciavo nelle gabbie, intanto c'ho tutti i posti per mettere, no? Ho fatto la scaffalatura come per il baracchino, la scaffalatura però l'ho fatta in plastica e fuori nel terrazzo che c'è la veranda chiusa e li metto lì. Ehi, ho capito già, già sono cose belle, da, già sono cose belle. E a che cosa la devo fare, se no, basta, qualcosa bisogna farla. Ah, e beh, senza ombra di dubbio. Anche a me già. Soprattutto i cani. Io ti dico, è un cane. Chi non ce l'ha il cane non capisce quello che ti può dare. Sì, il cane già capisce. Ma capisce il cane, capiscono anche gli altri animali. Non ti credere che gli uccelli sono macchine. Se io vado a filmarli, non li dà più a mangiare. Mi stavo filmando, dandoli da mangiare, si è bloccata, perché ha visto a me con il telefonino per filmare. Si è bloccata, non gli ha dato da mangiare, allora mi sono allontanato e ha continuato. Ti credo, se ne accorgono. Cosa? Tu devi vedere che belli quando mangiano, allungano tutto il collo e lui gli dà da mangiare. Eppure il padre, tutti e due si mettono sul nido e gli danno da mangiare tutti e due, cioè, perché sono un bel... Sì, avanti. C'era qualcuno che voleva entrare, boh. Ci credo. Adesso mentre tu stai parlando, io sto studiando. Sempre sul canarini, sempre solo sul canarini. Te credo. Bisogna studiare già, se uno vuole sapere tante cose. Non dico il computer, ma la maggior parte delle cose le so. A me mi hanno dato del computer già. Mi hanno dato del computer, ho sistemati, adesso sto aspettando che venga a prenderseli. Di uno mi è stato molto difficile. Come si chiama? Praticamente si è rotto, sono disaldati i fili da questo, come si chiama? Da questa schedina piccolina dell'accensione. Cosa già? La bacinella con la roba da metterla a posto, dove la posso mica camminare? Non posso immaginare. E tu pensa io con la schiena. E camminavo e correvo, facevo 5 scale alla volta e saltavo. 5 scale alla volta. Ma non posso mai camminare. Abdu Gazzino. Sì, ma sembra un dritto già. Preghiamoci la salute. Preghiamoci la salute già. Quella che abbiamo, che c'è rimasta. Ma Claudio che fine ha fatto? Claudio! C'è musica, un casino! Ehi, fai tranquillo. Ciao Samo! E Lu! E Mary! Luca! Politico! E Lu! Luca! Comune Lu! E Lu, quindi tu già vieni domani mattina, dai! Sto a darmi una mano a mantenere il tubo, ma niente di che! Se è sempre buono, sì. Perché Gianni non ce la fa, capito? No, non ci vuole niente, già tutto pronto, già tutto assemblato, tutto a posto. C'è da togliere il centrale della sua e infilarlo nel piantone nuovo, basta. Poi gli attacco i radiali, metto il grasso dove devo metterlo e basta, è finito. Via, tranquillo. Speriamo che ne esca quello centrale. Sì, no beh, quello più grosso è attaccato al piantone che c'ho io, quello lasciato, c'è la resina, no? Non potevo scaldarlo per toglierlo, no? Che brucio la resina. Ho rifatto tutto la bobina nuova, ho messo il connettore nuovo, tutto rifatto, pulita la spirale, le morsettiere, tutto, quello è pronto, capito? Basta togliere il centrale e metterlo in questo e poi rimetto sull'antenna. Sì, ci sei attentato, ci stai studiando. Studiando? Lascialo studiare. No, ma anch'io adesso mi assento, ci sentiamo dopo magari in 27. Sto facendo cosa al computer, ok? E io sono qua. KK, dai, va bene. Cargamella! Eia! Finito adesso! Adesso si buzzineggia, c'è la zezza. Cosa? Ho detto, se no si buzzineggia. Ho capito. Quelli usi? Il baracchino non è stato nessuno. Non c'è nessuno? No, non c'è nessuno. Oh, è strano, lo vedi. Non sa che... Ma che te lo fa che ti entra quando parli? E dove? E certo che sì. Mi accende pure le luci del cappellino di Natale. Ma lo devi tenere lontano. Se lo tieni vicino è normale che te lo fa. Lo tieni lontano non te lo fa. Ma non me lo fa? È lontano quanto? Io sono a letto, una minucca per intenderci. È lontano, cosa ne so, 3-4 metri. Sì, un passa già, vicino alle natiche, lì, zona natiche. Cazzo non ho mai fatto. Altro che nome, quale volta già ne ho fatto. Quando scaricavo la tinta. Ne ho fatto tutti, ma non quale, un po' di volte. Trasporto mobili, anche al quinto piano, ma mobili buoni, no? Brava, portati a piedi, al quinto piano. Mamma mia, erano tutti in preva, ma c'è questa fazenda, non ci possiamo fare niente. Adesso vediamo cosa fanno. Tu fai, dopo lo dici che ti domandano un po'. Ah, beh, certo, io lo so. Poi c'ho questo mal di testa brutto oggi, per carità, guarda. Mi si mal di capi quando si imbriaco. Allora, però c'è una piccola esplosa. Misurata apposta, me l'ha misurata al medico stamattina. Boh, magari chi lo sa. Stamattina mi sono svegliato alle 4. E non riuscivo più a prendere il sonno, poi mi sono riaddormentato. Mi sono svegliato alle 8 mi pare, alle 8 è un quarto, boh. E mi sono svegliato con un mal di testa. Probabilmente non hai dormito bene. Scusi, al telefono, Luca. Ma ha fatto freddo oggi però, eh. È vero. Sto Mari, con chi ce l'hai? Buonasera. Abbo. Aspetta un attimo, che mi pare che c'è gente, no, che è sulla 27. A Gio Maria dove non lo sento? Ma andavi tu. Se non lo sento. Attenzione, Gio Maria. Vieni sulla 27 che c'è Bacchisi e Marino. Ma stavo non lo sento a Gio Maria, boh. Ma sei in campagna allora? Sì, in campagna è Luca, ciao. Ah, è Maria Strano. Ciao, To. Sì, ok. Ciao Gio Maria, ci sentiamo. Luca, vieni sulla 27. Io sto qua in soggiorno alla 25. Vabbè. Poi tocca lasciarla sola, poi in quella cameretta c'è freddo. Attento, Bacchisio. Pare.